Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Bentrovati da Francesco Galante, eccoci per un nuovo appuntamento con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, e oggi al telefono con noi abbiamo Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco e buongiorno ai radioascoltatori. Gianluca, parliamo di un argomento che è importante, anche perché ci sono purtroppo, ahimè, tante persone che hanno bisogno di aiuto e si rivolgono all'Adico perché ci sono delle società di recupero crediti che sono molto aggressive. Cosa vi è successo? Sì Francesco, allora diciamo che insomma il nostro rapporto con le società di recupero crediti non è mai stato semplice, ma solo per una questione diciamo lavorativa, insomma siamo la controparte. Sì. Notiamo però, non so se sia legato a qualche cambiamento particolare, ma forse a delle indicazioni dall'alto diverse, insomma, negli ultimi tempi, proprio anche in queste ultime settimane, riceviamo almeno una o due telefonate al giorno, dico al giorno, da persone che ci segnalano il fatto di essere minacciate, ma veramente minacciate da operatori del recupero crediti e da funzionari del recupero crediti, e le persone che ci chiamano sono solitamente anziane, ma non solo. E devo dire Francesco che ci troviamo in situazioni anche un po' particolari, in cui magari la persona anziana, che si fa prendere anche un po' dall'emotività, si è accettata al punto che veramente abbiamo avuto due o tre persone che hanno minacciato, addirittura poi sai, minaccia al telefono, il suicidio. Ora so che sono parole pesanti, però il problema è che dall'altra parte ci sono delle persone che usano delle parole minacciose e che riteniamo che sia assolutamente ingiusto questo tipo di comportamento. Quindi vogliamo portare alla luce questo fatto: c'è un accanimento particolare dalle società di recupero crediti nei confronti di chi ha evidentemente un debito da saldare. Sì, allora Francesco, chiaramente può esserci il debito, molte volte il debito è contestato. L'altro giorno abbiamo raccontato sul nostro sito, anche sui giornali, un po' la disavventura di un ristoratore della nostra zona, della zona del Veneziano, che pur essendo da parecchi anni, tra parentesi, con noi, quindi si è affidato a noi, al nostro ufficio legale, sta contestando delle bollette che sono per certi versi sicuramente errate, eppure il recupero crediti da Milano, da Palermo, lo chiama da ogni dove, lo chiama almeno due o tre volte a settimana. E il tono è un tono minaccioso, quindi come vedi non è solo il tono minaccioso nei confronti di chi ha un debito veramente, che comunque è lo stesso sbagliato il concetto. E il tono minaccioso lo usano anche quando c'è un contenzioso in corso, quando ci siamo anche noi in mezzo. E quindi insomma Francesco, quando parliamo di tono minaccioso parliamo di veramente di oltre all'aggressività da parte del funzionario del recupero crediti, sono delle minacce concrete, tipo ti portiamo via la casa, e capisci che a chiunque, ma soprattutto a un anziano che non sa con chi ha a che fare, sostanzialmente insomma la cosa preoccupa molto. Sì, sicuramente ti crea un'ansia ancora più grande, con varie problematiche che vanno a ripercuotersi sulla salute delle persone. Cosa si può fare a questo punto? Sì, allora, chi è con l'Adico e non deve, lo diciamo sempre, non deve preoccuparsi, nel senso che se chiamano dal recupero crediti, devono semplicemente dire: guardate, non dovete parlare con me, dovete parlare con Adico. Questo glielo diciamo sempre ai soci, qualche volta forse il messaggio non passa e quindi ci arriva la chiamata disperata del socio: mi ha chiamato il recupero crediti, al che noi diciamo no, recupero crediti deve chiamare noi. Ecco, quindi questo è sicuramente un vantaggio anche del fatto di affidarsi nei contenziosi alle associazioni dei consumatori. Nel caso in cui invece il tono non si sia affidato a un'associazione, insomma non si sia tutelato da questo punto di vista, si può sicuramente minacciare di denunciare la cosa al garante. Forse in quel caso la cosa migliore sarebbe quella di riuscire anche a registrare la telefonata, se fosse possibile, perché insomma a volte veramente ci sono dei toni, delle parole, dei messaggi che devono essere denunciati. Se c'è una registrazione è ancora meglio. Eh sì, una parola fa la differenza su un'altra sicuramente, quindi si può in qualche modo intraprendere un'azione diversa nei confronti di queste società di recupero crediti. Se avete qualche problema, vi capita di riscontrare questo tipo di problema, la cosa migliore da fare è chiamare l'Adico. Ricordo www.associazionedifesaconsumatori.it è il sito, con i contatti telefonici e tutto quello che serve per entrare in contatto con l'Adico. A questo punto, sperando di non aver mai bisogno di questa cosa, caro Gianluca, ti ringrazio, ti saluto, ci sentiamo in un prossimo appuntamento. Grazie a te, Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.